Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il 22 gennaio 1988 è una data storica per il sistema giudiziario britannico, ma anche per il mondo intero. In questo giorno viene emessa una condanna di ergastolo sulla quale non sussistono dubbi, che fa parlare per mesi i media internazionali, ma che, soprattutto, rende giustizia a due povere innocenti in maniera inconfutabile. Il delitto in questione è uno dei più efferati. Due ragazzine di appena 11 anni, Linda Mann e Dawn Ashworth, vengono barbaramente uccise, la prima nel 1983, la seconda 3 anni dopo. Il modus operandi dei due delitti, compiuti entrambi nella regione dell'Leicestershire, in Inghilterra, è il medesimo e fa convincere gli inquirenti che a commetterli sia stato lo stesso criminale. Grazie a tecniche di indagine assolutamente rivoluzionarie per l'epoca, gli inquirenti riescono a dimostrare che le tracce fisiologiche lasciate sulla scena dei due crimini dall'assassino sono della stessa persona. E quando il 17enne Richard Buckland si autoaccusa degli omicidi, gli investigatori del Forensic Science Service di Londra scoprono facilmente che il ragazzo è solo un mitomane. Grazie ad ulteriori indagini a tappeto, che durano parecchi mesi e vedono coinvolti oltre 5.000 uomini della regione, viene infine arrestato il vero assassino, Colin Pitchfork, il quale confessa entrambi gli omicidi. Ma quali sono le tecniche di indagine tanto specifiche e sicure che inchiodano il criminale senza lasciare dubbi sulla sua colpevolezza? In un articolo uscito su un giornale locale nel 1985, Peter Gill, investigatore del Forensic Science Service, descrive l'infallibile tecnica usata per la prima volta al mondo. Abbiamo sviluppato tecniche di analisi di materiale fisiologico, anche molto vecchio. Questo ci ha consentito di determinare senza ombra di dubbio la sua provenienza. È sufficiente un'analisi del sangue comparata per avere un riscontro immediato. Questo grazie al profilo del DNA. Il profilo del DNA. Peter Gill cita qualcosa che oramai è entrato a far parte della nostra cultura, una terminologia a cui siamo abituati tutti grazie all'importante attività di reparti specializzati quali i RIS di Parma, ma grazie anche a serie televisive di grande popolarità sia americane sia di casa nostra, che ci raccontano di grandi successi investigativi proprio grazie all'analisi del DNA. Lo conosciamo tutti, ma come funziona? E soprattutto, cos'è questo benedetto DNA? E cosa c'è dietro la sua scoperta? Oggi Destini Incrociati vuole raccontarvi proprio questo, l'incontro di due uomini che insieme cambiano per sempre il volto non solo della scienza investigativa, ma prima ancora quello del concetto stesso di vita. DNA, l'acronimo sta per desossiribonucleic acid, acido desossiribonucleico, una molecola complessa indispensabile per il funzionamento, la crescita e la riproduzione degli organismi viventi. È presente in tutte le cellule del nostro corpo e contiene tutte le informazioni che determinano la nostra unicità. Ciascuna cellula, dalla pelle alla saliva, dal sangue all'urina, contiene lo stesso DNA sotto forma di 46 cromosomi. Solo le cellule uovo nella femmina e gli spermatozoi nel maschio contengono metà corredo cromosomico, ossia 23 cromosomi. Al momento del concepimento, ciascuno spermatozoo, fondendosi con la cellula uovo, ricompone nella creatura in gestazione il patrimonio di 46 cromosomi. Per questo, ogni individuo riceve metà del proprio DNA dalla madre e metà dal padre. Il DNA è paragonabile a un libretto di istruzioni dell'essere vivente, dove viene scritto che colore di occhi abbiamo, l'altezza, il colore della pelle, il sesso, tutto il nostro patrimonio genetico. Questo è quello che noi sappiamo oggi, grazie a speciali microscopi elettronici estremamente sofisticati, che consentono di vedere il DNA anche se è infinitamente piccolo, essendo contenuto nel nucleo di ogni cellula. Perfino i bambini delle elementari imparano a scuola che cos'è il DNA, che forma ha e come funziona. Ma non è sempre stato così. La scienza ha cercato per secoli l'origine della vita e il meccanismo che spiegasse l'ereditarietà. Il DNA viene isolato per la prima volta nel 1869 dal biochimico svizzero Friedrich Miescher, che individua una sostanza microscopica presente in alcune bende chirurgiche usate. Essendo contenuta nel nucleo della cellula, egli la chiama nucleina. Da allora, decine e decine di scienziati in tutto il mondo cercano di studiarne la struttura e di capirne il funzionamento con i mezzi a loro disposizione. Grazie ai raggi X si comprende che si tratta di una molecola dalla struttura regolare e stabile, in grado di mantenere l'informazione genetica e di trasmetterla. Ma qual è questa struttura? Come è fatto il DNA? Nel caso del DNA era importantissimo capire quale fosse la struttura, perché ciò avrebbe permesso in avvenire la determinazione del codice genetico e fondamentalmente anche come questa informazione si poteva trasmettere da una generazione all'altra. Paolo Amati, professore di genetica molecolare dell'Università La Sapienza di Roma, pone l'accento su una questione importantissima, che è per molti anni oggetto di studio dei ricercatori di tutto il mondo: la determinazione della struttura del DNA. Conoscerne l'esistenza e sapere che in qualche modo esso rappresenta l'essenza della vita stessa non può essere sufficiente. Solo capendo com'è fatto si può determinare come funziona. È esattamente quello che sta pensando anche un giovane studente di ornitologia. Ha solo 18 anni, ma da 3 frequenta l'Università di Chicago perché è un ragazzino prodigio. Ha perfino partecipato a Quiz Kids, un popolare programma radiofonico americano al quale prendono parte i bambini dotati di capacità particolari e che rispondono a domande difficilissime. Here they are, the Quiz Kids, presented by the makers of Alka-Seltzer. We're on the air with the school kids questionnaire. L'ornitologia è una passione che il ragazzo ha ereditato da suo padre. Ma non sono solo gli uccelli a interessarlo. In questo momento sta leggendo un libro che lo affascina immensamente. Il suo titolo è Che cos'è la vita? E il suo autore, il grande fisico Erwin Schrödinger, scrive qualcosa che lo colpisce profondamente. Che cos'è la vita? Era una domanda alla quale avrei voluto tanto rispondere. Darwin aveva spiegato come si era evoluta la vita, ma quale era la sua essenza? Schrödinger scriveva che la sua essenza era l'informazione, qualcosa che aveva a che fare con i cromosomi, con le molecole. Io non avevo mai pensato alle molecole prima di allora. L'autore si domandava come funzionasse il passaggio di informazioni genetiche, che era una cosa ancora sconosciuta. In quel preciso istante io decisi che avrei studiato genetica e attraverso i geni avrei compreso la vita. La voce che avete appena sentito è quella del primo protagonista della nostra puntata di oggi, un uomo che dedica tutta la sua vita alla ricerca e allo studio del DNA. Il suo nome è James Watson. James Watson. Come abbiamo sentito, quando James legge il libro di Schrödinger, ha solo 18 anni e si sta laureando con largo anticipo in ornitologia, ma da quel momento in poi il suo percorso è destinato a una svolta definitiva verso la genetica. Nato nel 1928 a Chicago, James Watson si laurea comunque in zoologia a 19 anni, anche se oramai la sua scelta l'ha fatta. La genetica è la scienza alla quale ha deciso di dedicarsi. La fortuna è dalla sua. Nel 1950 vince un dottorato di ricerca zoologica che lo porta all'Università dell'Indiana, dove un gruppo di genetisti è guidato dal famoso professore Salvador Luria, torinese, che nel 1969 vincerà il Nobel proprio per i suoi studi di genetica. James Watson è al settimo cielo. Sì, indubbiamente l'ornitologia è la sua passione, ma lui oramai sa che la genetica è il suo futuro. E potersi trovare nello stesso complesso universitario del grandissimo Salvador Luria gli appare quasi come un segno del destino. Il gruppo del Fago, così si chiama la squadra di genetisti guidata da Salvador Luria, perché conduce ricerche di genetica impiegando come elemento di studio alcuni virus denominati appunto fagi. Watson inizia a frequentarli. I loro studi lo affascinano enormemente, soprattutto quelli di Max Delbruck, che dividerà con Luria il Nobel. In quegli anni il convincimento degli studi sulla genetica è che siano le proteine ad autoreplicarsi, e siano quindi proprio loro i geni. Il DNA viene addirittura considerato uno stupido supporto strutturale delle proteine stesse. James Watson si è inserito molto bene nel gruppo del Fago, tanto che viene mandato addirittura a Copenaghen nel laboratorio del famoso biochimico Herman Kalkar per studiare in maniera più approfondita alcuni virus. Gli esperimenti che si svolgono in Danimarca sono importantissimi per Watson e per i futuri sviluppi della sua ricerca. Qui, infatti, gli studiosi si servono del fosfato radioattivo come tracciante per ottenere informazioni sui fagi. È una strada nuova quella della radioattività impiegata in genetica ed è destinata ad essere un tramite fondamentale per le scoperte di James Watson. Intanto, essa lo porta nel maggio del 1951 a un meeting alla stazione zoologica di Napoli. È lui stesso a raccontare cosa accade. Andai a questo incontro in Italia e ci fu un intervento inaspettato. Non era segnato nel programma. E un signore parlò del DNA. Si trattava di Maurice Wilkins, un fisico che dopo la guerra si era rivolto alla biofisica e aveva iniziato a studiare il DNA. Alcuni credevano che esso potesse in qualche modo essere legato ai geni, ai cromosomi. Wilkins fece vedere una fotografia del DNA fatta ai raggi X che mostrava una struttura fissa, una struttura che si ripeteva in tutti i DNA di tutti gli esseri viventi. C'era qualcosa di universale nel DNA. James Watson è elettrizzato dalle affermazioni di Wilkins. È certo che vi sia qualcosa di incredibilmente importante nascosto nel DNA. Ha la sensazione ben precisa che l'essenza della vita, quella che Schrödinger chiama l'informazione, sia strettamente correlata al DNA, ma non sa come poterlo dimostrare. Intuisce che il passo fondamentale sia la definizione della sua struttura. Ma come fare? Si sta domandando chi possa aiutarlo, e la risposta è una sola: i più bravi genetisti del pianeta. L'identificazione della struttura della macromolecola del DNA e quindi la trasmissione dell'informazione genetica è oggetto di studi di diversi laboratori agli inizi degli anni 50. Bisogna scoprire cosa sia veramente l'acido nucleico e che forma abbia una sua molecola. Sono tre in particolare che cercano una soluzione a questo problema: il California Institute of Technology di Pasadena, il King's College di Londra e il Cavendish Laboratory di Cambridge. James Watson ha deciso. Deve assolutamente potersi recare in uno di questi laboratori. E per farlo ci sono solo due strade. O viene assunto oppure deve vincere una borsa di studio. Ma la cosa non è semplice, anche perché lui in fondo è laureato in zoologia. E che cosa c'entra un ornitologo con il DNA? Non dimentichiamoci che Watson ha lavorato con Salvador Luria e che qualcosa conta nel campo della genetica. È a lui che sta pensando il giovane. Forse può chiedere un aiuto al suo primo mentore. Borsa di studio o no, James Watson è una risorsa indispensabile nella ricerca che state conducendo sul DNA. Vi prego vivamente di accoglierlo nel vostro collegio di studio. In bocca al lupo per tutto, Salvador Luria. Una lettera come questa non si può di certo ignorare. Grazie all'intercessione del grande Salvador Luria, James Watson giunge con sua somma felicità a Cambridge, sede del famoso Cavendish Laboratory, una fucina di ricercatori di altissima professionalità. Basti pensare che ad oggi ben 29 dei suoi studiosi sono stati insigniti del prestigioso premio Nobel. James ha solo 23 anni. Mentre si trova sul treno che da Londra lo sta portando a Cambridge, riflette sul percorso di studi che ha fatto e sulle ricerche che lo hanno portato fin lì. Ma soprattutto è concentrato su una questione che gli monopolizza i pensieri: la struttura del DNA. James Watson è a conoscenza degli studi del notissimo chimico Linus Pauling, che proprio in quei mesi pubblica su una rivista scientifica un articolo che fa scalpore. È riuscito a realizzare una rappresentazione in 3D delle eliche alfa presenti all'interno delle proteine. James è interessatissimo ai risultati di Pauling. È deciso a utilizzare la sua stessa tecnica per individuare e rappresentare la struttura del DNA. Ma per il momento non sa proprio come fare. Il suo arrivo a Cambridge è destinato a dare le risposte non solo a lui, ma a tutto il mondo. Perché il destino ha in serbo per lui l'incontro della sua vita, quello con un fisico molecolare che gli viene presentato proprio da Maurice Wilkins, il ricercatore conosciuto a Napoli. Il suo nome è Francis Crick. Francis Crick. È lo stesso Watson che ricorda il loro incontro. Il miglior posto per le mie ricerche era il Cavendish Laboratory a Cambridge e fu lì che incontrai Francis Crick. Quando arrivai non lo conoscevo. Lui aveva 35 anni, io 23, ero molto giovane. Ma ci trovammo subito bene e decidemmo immediatamente che avremmo provato con una certa velocità a costruire un modello di struttura del DNA. Non qualcosa di proprio giusto dal punto di vista scientifico, ma una costruzione dalla quale partire. Un elemento su cui studiare, una base di partenza. Ecco a cosa aspirano i due ricercatori per il momento. Sanno che sono in parecchi a cercare la stessa cosa che vorrebbero trovare loro, non ultimo proprio Linus Pauling, e farsi soffiare la scoperta non gli va assolutamente. Il loro incontro, l'unione tra le conoscenze di genetica dell'uno e quelle di fisica dell'altro, appare immediatamente il mix giusto per arrivare a qualcosa di sensazionale. Tra poco, qui, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Provammo a costruire un modello di DNA, una tripla elica. Francis ne parlò con Wilkins e lui disse che una nostra collega del King's College di Londra, Rosalind Franklin, sarebbe venuta a vederlo. Lei lo vide e ci disse che assolutamente non poteva andare, che era sbagliato e francamente lo pensavamo anche tutti noi. James Watson, ricercatore del Cavendish Laboratory di Cambridge, in Gran Bretagna, sta raccontando la genesi di una ricerca estremamente complessa, quella per la definizione della struttura del DNA. Siamo agli inizi degli anni 50 e Watson, che ha soli 23 anni, ha conosciuto da poco Francis Crick, anche lui dedicato allo studio e all'identificazione del DNA. Vi abbiamo già presentato James Watson, ornitologo e ragazzo prodigio appassionato di genetica. Vediamo ora di conoscere meglio l'altro protagonista della nostra puntata di Destini Incrociati, Francis Crick. Francis Crick. Francis Crick è un inglese di classe media, esuberante, sicuro di sé, dall'insaziabile curiosità. Capace di parlare per ore e decisamente estroverso. Si laurea in fisica a soli 23 anni ed è considerato una promessa grazie al suo spirito di iniziativa particolarmente spiccato e al suo grande amore per la scienza. Mi ha sempre affascinato tantissimo la scienza, fin da piccolo. Per un bambino, qualsiasi cosa è misteriosa e semplice al tempo stesso. E io trovavo estremamente affascinante poter spiegare i fenomeni che si verificano in natura in maniera semplice. Al Cavendish Laboratory di Cambridge, Francis Crick si dedica allo studio della diffrazione dei raggi X da parte delle proteine. Ma è qualcos'altro che lo interessa terribilmente, il DNA. Anche lui, sembra incredibile, viene incuriosito proprio dal libro Che cos'è la vita? Del grande fisico Erwin Schrödinger, lo stesso che illumina James Watson. Quando Morris Wilkins presenta i due studiosi, appare evidente subito a tutti, benché abbiano 12 anni di differenza ed esperienze di studio molto diverse, che se la intendono alla perfezione, come ricorda Francis Crick. Siamo stati molto fortunati, per due ragioni. Primo, perché abbiamo iniziato a studiare il problema del DNA al momento giusto. E poi noi due, collaborando insieme, ci compensavamo. Se uno si metteva su una strada sbagliata, quell'altro lo riportava verso la direzione corretta. In un processo come quello della struttura del DNA è molto importante questa compensazione, perché si devono seguire determinati schemi, uno conseguenziale all'altro. E se si sbaglia uno di questi, chiamiamoli scalini, il rischio è di compromettere tutto il lavoro. Watson e Crick si trovano nel loro studio del Cavendish Laboratory di Cambridge. Sono già alcuni mesi che stanno studiando la realizzazione di un modello di struttura del DNA. Quello che con l'avvento del microscopio elettronico diventerà semplicissimo, per loro, è ancora un mistero insoluto. Come si svolge la duplicazione del patrimonio genetico? Che cos'è veramente la vita? È informazione? Come sosteneva Schrödinger? I due ricercatori decidono di sperimentare un modello di molecola composto da una tripla elica sulla falsariga di quella proposta da Linus Pauling per le proteine. Ma risulta impossibile. A confermare la loro paura è Rosalind Franklin, quotatissima biofisica e cristallografa che lavora al King's College di Londra con Morris Wilkins, che definisce inaccettabile la loro triplice elica. La ricercatrice ha realizzato alcune foto a raggi X della molecola del DNA e ritiene impossibile che il modello di Watson e Crick possa essere corretto. I due scienziati stanno ascoltando le osservazioni della irremovibile Rosalind. Lo sanno anche loro che quel modello di molecola non è corretto, ma certo non gli fa piacere sentirselo dire, anche perché sanno molto bene quale sarà la conseguenza di tutto questo. Il collegio di ricerca boccia il loro lavoro sul DNA e li indirizza a un progetto sulle proteine. Sono tutti convinti che siano loro ad autoreplicarsi e ad essere quindi l'origine della vita. I'm doing what I'm supposed to, I'm a writer, I'm a fighter, entrepreneur, fresh out the sewer, watch me maneuver, what's it to you, the track I lay sick, it's better than basic, this is my recovery, my comeback here. Ma Watson e Crick non la pensano come tutti gli altri. I due ricercatori sono convinti che il DNA nasconda molto di più di quello che si pensi comunemente e vogliono a tutti i costi scoprirlo. E non sono i soli. Linus Pauling prosegue al di là dell'oceano sulla loro stessa strada. Anche lui cerca disperatamente di creare un modello di struttura del DNA che ne consenta la comprensione. È una specie di gara della scienza e ciascuno dei concorrenti vuole assolutamente arrivare primo. Il caso vuole che il figlio di Linus Pauling, Peter, stia facendo un master proprio lì a Cambridge, al Cavendish Laboratory. È così che Watson viene a conoscenza dei risultati di un test realizzato da Pauling proprio dal suo stesso figlio. Un giorno Peter Pauling entrò nel nostro laboratorio e mi diede una copia di un manoscritto del padre che riportava i risultati della sua ricerca. Ero terrorizzato. Guardai e vidi il disegno di una struttura di DNA a tripla elica. Sembrava un granchio, assolutamente inaspettato. Io e Crick corremmo immediatamente al nostro reparto di chimica e chiedemmo agli esperti: può essere giusto un modello così? Loro dissero di no e noi fummo molto contenti. James e Francis si stanno guardando. Sono ancora in gara. Pauling non ha ottenuto il corretto modello di DNA, ma la corsa si fa serrata, non c'è tempo. I due amici devono, tra le altre cose, lavorare di sera, di notte. Non dimentichiamoci che il loro incarico è stato spostato sulla ricerca delle proteine. Si convincono che l'unico modo che hanno per ottenere un risultato che non sia sbagliato è quello di attenersi a quanto in loro possesso. Le foto a raggi X realizzate da Rosalind Franklin. Osservandole attentamente, i due intuiscono che la struttura è composta non da tre, ma da due eliche che si avvitano intorno a un asse centrale. La consapevolezza di essere finalmente sulla strada giusta e la volontà di battere non solo Pauling, ma chiunque stia studiando un possibile modello di DNA, spinge Watson ad accelerare i tempi. Mentre è seduto in treno di ritorno da Londra, dove ha ottenuto da Wilkins il permesso di guardare alcune nuove foto realizzate dalla Franklin, il giovane si convince che l'unica possibile struttura del DNA sia una doppia elica. Il modello che realizza con Crick nelle notti successive si rivela immediatamente quello giusto. La divisione cellulare, necessaria a un organismo per crescere, richiede una duplicazione del DNA, in modo che le cellule figlie possano avere la stessa informazione genetica della cellula madre. La struttura a doppia elica permette un meccanismo estremamente semplice per la replicazione del DNA. I due filamenti, infatti, si separano e da ognuno viene creato un filamento complementare. Con questo meccanismo, le cellule figlie hanno un bagaglio cromosomico identico alla cellula madre. James Watson e Francis Crick ce l'hanno fatta. Destini incrociati. Il settimanale inglese Nature è una delle più antiche e importanti riviste scientifiche esistenti. Viene pubblicata fin dal 4 novembre 1869 e sulle sue pagine compaiono moltissimi articoli e lettere su scoperte e avanzamenti scientifici di primaria importanza, come i raggi X, la fissione nucleare, il buco dell'ozono, la prima clonazione di un mammifero, la famosa pecora Dolly. Il 25 aprile del 1953, sulle sue prestigiose pagine, viene pubblicato un articolo firmato da James Watson e Francis Crick, ricercatori del Cavendish Laboratory di Cambridge. Vorremmo proporre una struttura radicalmente diversa per il DNA. Questa struttura ha due catene elicoidali, ognuna avvolta intorno al proprio asse. Per scrivere il loro articolo sulla struttura del DNA, che hanno identificato dopo oltre un anno di ricerche, i due studiosi scomodano Elizabeth, la sorella più giovane di Watson, rovinandole il sabato pomeriggio e obbligandola a sedersi davanti alla tastiera della macchina per scrivere, dove sotto dettatura prende forma uno degli articoli fondamentali nella storia della scienza mondiale. La scoperta di James Watson e Francis Crick, la struttura a doppia elica del DNA, suggerisce immediatamente l'esistenza di un sistema di duplicazione del materiale genetico che spiega in maniera semplice quella che il grande fisico Erwin Schrödinger aveva definito l'essenza stessa della vita, e cioè la trasmissione delle informazioni. Sulla stessa rivista Nature e quello stesso giorno vengono pubblicati altri articoli correlati a quello di Watson e Crick. Uno è di Rosalind Franklin, che illustra i suoi studi sulla diffrazione a raggi X del DNA. Un altro di Maurice Wilkins, che espone la sua teoria sulla lunghezza dei filamenti dell'acido desossiribonucleico. Ma indubbiamente è l'articolo dei due amici, Jim e Frank, come si chiamano tra di loro, che scatena l'interesse del mondo scientifico. Watson e Crick arrivano in un tempo relativamente breve, dove molti altri scienziati, anche più noti ed esperti, falliscono. La loro collaborazione si basa su un rapporto di compensazione, dove non arriva uno, subentra l'altro, riuscendo così in maniera quasi sorprendente a raggiungere un risultato strabiliante in un campo che non è il loro. Nessuno dei due, infatti, è un chimico. Una cosa molto importante nel nostro rapporto fu che non avevamo paura di dirci in faccia le cose. Eravamo trasparenti, in alcuni casi quasi rudi. Si è detto che James era il biologo e ha fatto la parte di biologia, io ero il cristallografo e ho fatto quella parte, ma non andò così. In particolare, come le basi si uniscono tra loro, che sarebbe cristallografia, non l'ho scoperto io, ma è stato James. Ecco l'importanza della collaborazione. Noi facevamo tutti insieme, mischiando i ruoli. Fu così che riuscimmo ad avvantaggiarci rispetto agli altri che cercavano la nostra stessa soluzione. Francis Crick non ha dubbi. È la collaborazione l'essenza del successo di questa scoperta incredibile, la struttura del DNA. Per capirne il valore immenso, basti pensare all'importanza della decifrazione del DNA in medicina legale e in criminologia. Il suo essere unico e determinabile in maniera semplice, per esempio con una sola goccia di sangue o di saliva, con i capelli o le unghie, porta a una risposta inequivocabile sulla sua appartenenza. Con l'impronta genetica, i criminali non hanno scampo, ma anche per gli innocenti, il DNA è un alleato prezioso. Ma non è solo la scienza investigativa ad avere un impulso grandissimo dalla scoperta della struttura del DNA e dei meccanismi di duplicazione del patrimonio genetico. In campo medico sono infinite le applicazioni che ne derivano. Gli OGM, organismi geneticamente modificati, non sono altro che il risultato di DNA ricombinante. Un esempio è l'insulina sintetica, che va a sostituire quella animale utilizzata fino a quel momento e molto più complessa da ottenere. Produrre insulina con il metodo del DNA ricombinante riduce la dipendenza dalle ghiandole animali e contemporaneamente permette di realizzare un prodotto chimicamente identico all'insulina umana, eliminando le reazioni allergiche nei pazienti affetti da diabete. In campo agricolo, la produzione del Golden Rice, un riso geneticamente modificato per contenere vitamina A, ha contribuito a combattere gravi malattie legate alla sua carenza nell'alimentazione degli abitanti di paesi come l'Africa e il sud-est asiatico. Le manipolazioni genetiche sono oggetto di controversia nel mondo scientifico e anche in quello religioso, ma è indubbio che la scoperta di Watson e Crick, coadiuvati da Maurice Wilkins e da Rosalind Franklin, rappresenti qualcosa di assolutamente grandioso. Tanto che nel 1962 è proprio a loro che va il prestigioso premio Nobel per la medicina. Purtroppo la Franklin non può godere del meritato riconoscimento dei suoi studi, perché nel 1958 muore per un tumore, molto probabilmente connesso alla grande quantità di radiazioni alle quali si sottopone per i suoi esperimenti. Ci fu qualcuno che, non appena fu uscito l'articolo mio e di Crick sulla struttura del DNA, ci suggerì di brevettarla immediatamente. Noi non ritenemmo di farlo, anche perché onestamente non sapevamo ancora cosa farcene di quella struttura. Fu solo 20 anni dopo che gli utilizzi del DNA ricombinante incominciarono ad avere un interesse economico. Ma tanto oramai quello che era fatto era fatto. James Watson ci tiene a sottolinearlo. Nessun guadagno dal brevetto della molecola del DNA, quindi, per i suoi scopritori, che la definiscono una cosa della natura. Nessun guadagno, ma un incessante studio e una ricerca che non si ferma mai. Le frontiere del DNA e le sue grandiose potenzialità sono ancora in divenire. Lo studio di patologie quali il cancro, l'autismo, la schizofrenia si avvalgono oggi più che mai delle informazioni che arrivano dallo studio del DNA, che sono lì, pronte per essere decifrate. Esattamente come è stato nel lontano 1953 per James Watson e Francis Crick, che non hanno mai smesso di subire il fascino misterioso dell'essenza della vita. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.